Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Signora, ciao. A lei la parola. Ciao, voglio dire che mia figlia, oltre alla bellezza esteriore, e se andrà avanti vedrete pure che ha molta bellezza anche interiore. Comunque vada, ti posso dire, Giusy, tu sei sempre la nostra miss. Un bacio. Grazie, mamma. Continuate a votare per le nostre tre ragazze. Adesso facciamo l'ultimo viaggio. Io con i vorrei questa mattina fare una trasmissione al di fuori di ogni pregiudizio. Perlomeno mi sforzerò per quanto possa a non avere pregiudizi. Ieri sera mi sono imposto di guardare l'ultima serata di Miss Italia. L'ho guardata attentamente, dalla presentazione al lancio del TG2, del TG1, fino appunto a tutta la coda, gli strascichi, i commenti, i giornalisti che dicono la loro, che facciano le domande alle Miss. L'ho vista perché mi interessava fare questo salto nel tempo. E mentre la guardavo mi domandavo quale Italia in questo momento sta guardando questo spettacolo. Anche perché c'era una certa continuità, sicuramente una continuità con la storia della nostra televisione. Anzi, in questa ultima versione di Miss Italia c'è stato un deciso ritorno a una televisione che sembrava scomparsa. Non so se rimpiangerla, non so se giubilare per il fatto che sia riapparsa. Mi sembra di aver intuito che in questa oscena e orrenda rappresentazione in cui ancora una volta uno squadrone di ragazze vengono mostrate come se fossero carne da esposizione, ma questa volta c'è una nota in più, una nota additiva. Questa volta il mostrare è stato anche velato da un velo di ipocrisia. A queste ragazze è stata messa una sorta di chador, sono state vestite con una specie di costumino accollato e a pantaloncino, sembrava quello delle nostre nonne, fatto di un tessuto spesso, come ho già detto questa mattina al giornale radio, dello stesso tessuto delle calze impenetrabili che impose Ettore Bernabei alle gemelle Kessler, verità o leggenda che sia. Quindi sono state velate, quindi improvvisamente la risposta a tutte le cattive ragazze, a tutte le sconcezze, a tutte le olgettine, a tutte le veline, a tutte le ragazze di coscia disinvolta, a tutte le ostentazioni, sono in queste fantastiche pupattole tutte fatte di lacrime e botulino. Sì, perché anche loro in fondo qualche cosina hanno fatto per somigliare alle altre, però sono state chiuse, velate, sono state tutte ammantate di una grande area di sacrestia che dovrebbe renderle finalmente purificate, come se ci fosse stata una palingenesi, una rinascita improvvisamente dell'immagine della donna italiana. Ma quanto le donne italiane si vedono e si riconoscono in queste figlie di mamma, in queste ragazzine piangenti, queste ragazze che improvvisamente sono tutte intrise di valori, di famiglia, di cuginetti, di fratellini piccoli, di mamme, di nonne, di zii, di papà, tutte pronte, ma perché sono lì? Nessuno dice perché lì, ce la voglio fare, sono me stessa, dai ce l'hai fatta figlia mia, sì ce la farò, ma fare cosa? Perché si va lì? Si va lì per farsi vedere, lecito, giustissimo, a tutti noi piace farsi vedere, a tutti noi abbiamo una sorta di nostro profondo amor proprio, di un narcisismo inespresso, a noi tutti piace farci vedere, a noi tutti piace sentirci belli, a noi tutti piace sentirci ammirati, e quindi non ci vedo nulla di male. Ma perché questa necessità comunque di raccontare in maniera così vecchia, così antica, così vetusta, quello che ormai è uno spettacolo, non appartiene più alla nostra contemporaneità, e farlo passare come l'immagine più calzante, proba, edificante, finalmente rivisitata e recuperata della donna italiana. 800240024, immagino che qualcuno di voi avrà veduto Miss Italia. La serata precedente l'hanno seguita, mi sembra, 3 milioni di italiani. Ci sarà una persona che questa mattina non si vergogna, non si nasconde e non dice queste cose non le guardo, io leggo un buon libro, io la sera ascolto della musica classica, poi magari vi guardate Miss Italia tenendo in una mano le 50 sfumature di grigio e nell'altra non lo so. La numero 93. Studio all'università, sono al secondo anno di comunicazione. Numero 13. Credo che oltre a essere un concorso di bellezza è anche un percorso, vero percorso di vita, perché si possono imparare valori nuovi, si conoscono altre ragazze. Benvenuta. Mi sono diplomata da poco al liceo scientifico, adesso dovrò fare l'iscrizione all'università, mi piacerebbe fare medicina. Accomodati. E le mie più grandi passioni sono la recitazione, studio da 5 anni. Viaggiare, leggere. Qual è il punto d'arrivo di queste ragazze? Qual è il senso di questo concorso? Io capisco, nell'Italia che emergeva dalle mestizie di una guerra, della desolazione, della povertà, della miseria, nell'Italia del fotoromanzo, di Mille lire per un sorriso, poteva anche starci che qualche robusta e florida ragazza desiderasse comunque di arrotondare o di sfondare o di entrare nella nascente industria cinematografica o del fotoromanzo. Da lì sono nate probabilmente le più stupende dive del nostro pantheon femminile, sulle quali non abbiamo nulla da dire. Ma oggi, in una frazione di tempo così frastagliata, così variegata, che la velocissima storia del nostro paese passato attraverso la televisione, riflesso nella televisione e a sua volta copia conforme di ciò che si vede in televisione, esiste ancora un modello a cui si rifà Miss Italia? Miss Italia è ancora speculare di una realtà che esiste nel nostro paese? Lo faccio come domanda perché sono realmente curioso. Giuseppe, buongiorno. Un uomo, e forse sarà l'ultimo, farò parlare questa mattina. Buongiorno Nicoletti, complimenti tanto per la trasmissione. Sì, vabbè, andiamo avanti. Io sono di quelli che ha visto la trasmissione. Perché mi domando, perché sono tutte verginelle, tutti mi scrivono, hai perso il tuo tempo. No, Nicoletti, io ho visto la trasmissione, ma intervenivo per questo motivo. Allora, detto subito che non sono d'accordo con te, nel senso che comunque queste sono trasmissioni ormai da abolire, da eliminare, perché fanno abolire, parte uno ci riflette, io non sono per abolire nulla. Ma fanno parte dell'archeologia, insomma, televisiva. Di finché ci saranno persone col catetere che la sera non hanno altro da fare, giusto che esista anche in Missità. Ma è bello sempre vedere queste belle ragazze, insomma, così in esposizione. Però io... questo è fatto. No, aspetta, no, Giuseppe, io sono il più feroce dei libertini, se voglio, quindi non la censurerò nei suoi desideri. Lei però ha detto qualcosa, le è sfuggito. È bello vedere queste belle ragazze. Quindi il senso di Miss Italia è l'esposizione di ragazze. Assolutamente sì, anche perché va detto, insomma, voglio dire, ci sono talmente di tanti sessi che fanno carriera in televisione, perché raccomandati, perché non... Ma lei perché l'ha guardata? Cosa le piaceva? La dietrologia. Lei... No, allora, io ho guardato la trasmissione perché tutti gli anni è una polemica continua. Adesso per una settimana sentiremo fior fior di giornalisti come lei. No, ma forse ho l'unico. Non ha lasciato grandi tracce, nessuno ha protestato. No, però Nicoletti, volevo dire questo. Allora, tutti attaccano Miss Italia e sono d'accordo in una trasmissione che comunque ormai non dà più l'emozione che poteva dare 50 anni fa, 40 anni fa, mio padre, insomma, classe 1936. Ma lei cosa dà emozione? Lei cos'è che darebbe concetto... emozione? A lei cosa darebbe emozione? Cosa sarebbe il sostituto di Miss Italia? A me, intanto io guardo trasmissioni come Piero Angela oppure... Sì, siamo tutti, Piero Angela, certo, e ascolta musica classica. No, con i giornalisti d'assalto alla Santoro vecchia maniera, cioè quelle sono le trasmissioni di approfondimento, certo, che mi piacciono tantissimo. Ma io voglio dire una cosa, ma è possibile che in Italia nessun giornalista alza un dito sui programmi pornografici schifosi, indegni, che su alcuni programmi di Rai 1 lo fanno per mesi, su povere ragazzine uccise, su delitti sanguinosi? Maestro, che c'entra? C'entra perché noi in Italia assistiamo con la televisione pubblica a dei giornalisti che fanno per mesi trasmissioni sulla morte di Chiara Gambiraggio, piuttosto che di San Scarpa. Poi ognuno fa con il metodo che preferisce, è anche lecito parlare di fatti di cronaca. Poi esiste lo stile, il metodo, la mediazione, ma io non vorrei uscire dal seminato, vorrei parlare di quello di cui stiamo parlando. Emanuela. Pronto, buongiorno. Sì. Guardi, io sostanzialmente non sono troppo d'accordo, le spiego subito il motivo di questo mio pensiero. Credo che sia innanzitutto anacronistico pensare che Miss Italia sia un classico esempio di mercificazione del corpo femminile, eccetera, eccetera, perché se... Io non l'ho detto, non è mercificazione. No, va bene. È che Nessuno con la baionetta in resta ha spinto queste ragazze e loro mamme. Appunto, il discorso è questo, che a parte che secondo me sarebbe stato poi il pensiero diretto, quello di pensare che Miss Italia sia un po' un'esposizione di donne, eccetera, eccetera. Io credo che fondamentalmente, sicuramente non mi sento rappresentata per ovvi motivi estetici, non in quanto donna non mi sento rappresentata, ma non è quello il discorso. Vabbè, perché scusi, adesso con tutto il rispetto per Miss Italia, perché lei... sono gnocca ad andare a Miss Italia, non si sente rappresentabile. Qual è il problema? No, il problema è che per motivi, cioè, non voglio parlare di me stessa, comunque tornando al discorso di Miss Italia, credo che sicuramente il discorso che lei faceva prima del fatto che sia un po' credo offensivo comunque per una donna. No, non ho letto offensivo per una donna, non è... Sono perplesso perché non riesco a capire. Poteva aver senso, molto di più senso, vedere le ragazze discinte. Almeno qualche signore, come quello che diceva, aveva motivo per dare corpo alle sue fantasie. Non faccio una in ordine alla liceità o la moralità, via dicendo. Non lo capisco. Che le fanno a vedere? Credo che si stia un po' perdendo il focus dell'oggetto, nel senso che si sta parlando effettivamente ed esclusivamente di bellezza femminile, cioè non sto parlando di oggetto ovvero donna. Sì, ma la bellezza femminile perché deve essere mostrata sempre così a palate, con la ruspa a 50 per volta? Non lo so, questo è il mio punto di vista. È quello che viene chiesto al concorso, cioè non è un certamen. Ma perché esiste ancora questo concorso? Perché esiste? Si fa la gara di bellezza? Non lo so, questo mi domando. Paola Concia, buongiorno. Buongiorno. Ti ho fatto ascoltare un po' di primi giudizi. Tu non so se non l'avrei vista Miss Italia, perché perché, come puoi immaginare, non perché sono moralista o quant'altro, perché stavo in giro per l'Italia. Però hai capito il senso di Miss Italia quest'anno. Hanno messo i braghettoni alle Miss Italia, Miss Italia sopravvive e c'è questa grande infarinatura, un po' di parrocchia, mamma di brave ragazze. Ma siamo veramente un paese ridicolo, guarda, veramente. Ho visto le foto di tutte queste ragazze con queste cose nere, terribili. Io trovo che, come al solito, sono molto con te, perché allora intanto appunto diciamo che Miss Italia è una cosa ridicola, ma per tantissime ragioni. Non è che queste ragazze, se non c'è Miss Italia, non hanno la possibilità di raggiungere le loro ambizioni, che non si è capito quali siano, fra l'altro. Cosa vogliono fare? Non ho capito. Sì, vogliono vogliono tutte fare attrici, cinema, anzi tutte teatro, come se i teatri fossero lì a aspettare. Poi tutta questa cosa ammantata di politicamente corretto e donano i soldi a quello e a quell'altro, lo trovo più il nostro paese è un paese ridicolo, cioè, è ridicolo nel rapporto che ha con le donne, anche Miss Italia, cioè Miss Italia dà la conferma di quanto sia ridicolo oggi, no? Evidentemente c'è un problema che allora è stato collegato. Paola, spero che tu non abbia fatto ancora colazione, sennò sicuramente avresti dei problemi di stomaco. Senti questo. C'è mamma là. La mamma? Signora, a lei la parola. Claudia è una ragazza speciale, forse perché io sono la mamma, però è una ragazza che ha un cuore grande, non passa mai avanti agli altri, è una ragazza da scoprire, ecco. In bocca al lupo, Claudia, ti voglio tanto bene. Ti amo proprio. Grazie signora, grazie. Allora. Lorella Zanardo, buongiorno. Buongiorno. Ricordo, a voi. Lorella Zanardo è un personaggio importante se si parla di donne in televisione, autrice del documentario Il corpo delle donne, che è anche uscito come libro di Feltrinelli, che ha fatto moltissimo parlare di sé, ha avuto un successo enorme in internet, è stato il testo ispiratore di tutto un movimento di donne che appunto reclamavano l'attenzione non soltanto per l'esposizione del loro corpo. È in uscita per la Zanardo il 16 settembre senza chiedere il permesso, come cambia la TV e l'Italia, Feltrinelli, quindi siamo proprio in tema. Io non sono mai stato molto d'accordo su questa sorta di befanismo come valore assoluto. Poi devo dirti, non trovi che sia peggio ancora questa sorta di mellifua, ipocrita esposizione del perbenismo, quando poi alla fine sono sempre Miss, vanno sempre lì perché sperano che qualcuno le faccia primeggiare, le metta sui palcoscenici, faccia di loro quello che è sempre stato fatto alle altre prima di loro? Allora, prima di tutto, grazie dell'introduzione, voglio subito chiarire una cosa: per chi ha letto appunto il libro, visto il documentario, noi abbiamo chiesto tutto fuorché mettere le mutande a Miss Italia o, come ha fatto spesso Ricci in Striscia la Notizia, mettere il calzoncino alle veline. Però la risposta ufficiale a TV di Stato è stata una Miss Italia in braghettoni. È perché non hanno capito nulla e basta informarsi. Allora, io che rappresento più che altro le ragazze, nel senso che da 3 anni vado nelle scuole, incontro ragazze e ragazzi, e la cosa interessante, vorrei dire anche una cosa positiva, che vadano nelle scuole medie e superiori parlando con le ragazze e i ragazzi, e i ragazzi e le ragazze sono oltre. Nel libro che esce senza chiedere il permesso faccio parlare loro e inizia con un manifesto della loro sessualità scritto da dei 19-20 anni, dove loro dicono che sono stufissimi di queste cose tipo Miss Italia, ma non perché sono bigotti, perché sono proprio oltre. Quindi quello anche di perché cui... scusami se ti interrompo, la sessualità che probabilmente è la più fantastica e la più controversa esperienza che faccia un ragazzo e una ragazza è stata totalmente tolta da Miss Italia. Queste ragazze sono asessuate, stanno lì comunque, sono belle, sfilano, sono belle gonfiate anche se coperte, ma che ne so, bostano il cuginetto, degli improbabili fidanzatini adolescenti che sembrano 15 anni meno, baciano le mamme, piangono, sono tutte belle dentro. L'abbiamo praticamente infibulate dal punto di vista catodico queste ragazze. È così, non c'è più, come mi ha detto un ragazzino di 17 anni in una scuola, quando io erroneamente dicevo ma queste immagini erotiche, lui ha alzato la mano e mi ha detto mi scusi Zanardo, queste immagini non sono erotiche, perché in queste immagini non c'è Eros, perché Eros è relazione, 17 anni, no? Di un liceo classico. Allora, per arrivare al punto, vorrei per aggiungere una parte importante, la responsabilità è nostra, degli adulti e delle adulte italiani. Le ragazze mirano ad andare a corso in Miss Italia e garantisco che ce ne sono ancora parecchie, perché noi da 30 anni l'agente di socializzazione che funziona di più in Italia è la televisione. La televisione mostra questo, come mi ha detto una mamma in una scuola, sono contenta se mia figlia fa questi concorsi perché almeno lei esiste. Dunque è passato questo concetto, se mi vedono esisto. È un concetto, ahimè, forse detestabile, ma fa parte della contemporaneità. Paola Coccia, un attimo, Zanardo, poi avremo tutto il tempo. Paola Coccia, ma può essere che non ci sia una via di mezzo fra Barbie e Santa Maria Goretti, presentabile e plausibile? No, Lorella Zanardo lo sa bene, insomma, perché ci lavora e ci ha lavorato tanto su questo. È che l'Italia, in Italia si ha un rapporto con le donne italiane, con l'immagine delle donne assolutamente sbagliato, cioè nel senso che proprio adesso questa cosa di Miss Italia ha a che fare con i pronunciamenti della Presidente, non so se ve lo ricordate, appunto, sì, sì. I pronunciamenti della Presidente della RAI che dice basta. Il primo impegno della Presidente Tarantola è... che dice in teoria quello che dice Lorella Zanardo, ma poi non ha capito niente come dice Zanardo, cioè non ha capito quello che Zanardo vuole le ha semplicemente dire. Insaccate, ma sono rimaste sempre le stesse, ha semplicemente messo le mutande appunto a queste ragazzine che, se queste sono scienziate che appunto studiano, fanno volontariato piuttosto che un'altra cosa, e che allora che senso ha fare Miss Italia? Però non è manco Italia, detto, Paola, scusami, io su questo da uomo poi rappresento qui una sparuta minoranza, ma non è nemmeno detto che una donna, se sia bella, non debba impugnare la bellezza come sua dote eccelsa. No, ma io, come sai, non sono una che pensa che una donna appunto o è bella o è intelligente. Detto da me, poi da una donna che ama le donne sono un variegato mondo. Il tema è che la televisione non le sa raccontare, non le sa raccontare le donne per quello che sono, belle, brutte, intelligenti, antipatiche, stronze, scusate. Quindi va per categorie estreme, così. Che per categorie, le donne come gli uomini d'altra parte sono questo, ma c'è questo rapporto, e questa Miss Italia è una cosa ridicola e bisogna dirlo che è ridicola, cioè che non è questo quello che appunto... Non è che prima Lorella Paola però Zanardo, voleva dire, tante di noi dicono, no? Sì, però Paola, scusa, Paola, non è che è finito adesso il periodo in cui anche strumentalmente, politicamente, le ragazze di coscia svelta rappresentavano una succulenta arma di tensione politica. Finito quello, sembra che improvvisamente tutto cambiato. Io trovo molto, molto non più pericolosa e sottile questa versione. L'altra era bieca, smaccata, ma perlomeno si presentava per quello che era. Adesso è la stessa cosa, però coperta. Bravo, bisogna andare a vedere sotto. Non è cambiato niente nella testa di gli italiani o alcuni l'idea, naturalmente. Ma anche le italiane, perché la colpa è di tutti, non dividiamo che sì, donne buone e uomini cattivi. Italiane, cioè, perché lì ci sono le madri, bisognerebbe interrogarsi su queste madri, no? Un minimo, e padri, si padri poi tra l'altro addossano solo le madri, cioè stanno. No, no, cioè, vuoi qualcosa, vuoi sentirti un padre? Senti il padre, perché ti diamo anche l'idea, perché sennò sembra. No, per che, capire, cioè, no, senti, ecco un reperto antropologico molto interessante. È libero, vai. Buonasera a tutti. Ciao bella di papà! Bambina, grazie! Marito, mi sono... l'amore mio! Ce l'ho fatta, papà! Mi manchi tanto! Sì! Te la cavallo è tutta tua, papà! Ce l'ho fatta, bambina! Sei, mi sono inseverato! Sarei un dono per tutte le ragazze di tutta Italia! Lorella Zanardo, io non so dirti se sia meglio il botox o le lacrime in questo caso. Sì, però io guarda, rido meno, adesso vorrei riportare il discorso su una cosa molto dura. Questa cosa a me non fa ridere perché, ripeto, una cosa che forse non è stata ascoltata con la dovuta attenzione. Qui non c'è più nulla da ridere, è un disastro. E noi, io mi sento colpevole, ecco perché vanno andiamo nelle ognuno scuole. Se permette annuncia disastri, sì, con il tono che più gli compete. A me piace sorridere anche di fronte all'apocalisse. No, io non intendevo te, per carità, dico, sono molto preoccupata io, no? Anche non ho la vocazione della prefica, io non piangerò mai, neppure sulla mia bara. No, certo, non è questo, ma però, diciamo, io andando nelle scuole il disastro lo vedo, e allora mi sento io, non gli altri, colpevole forse di aver permesso tutto questo. Io sentivo Paola Concia, però bisogna che tutti cominciamo a dire, non parlando di che cosa è stato sbagliato, ma cosa stiamo facendo per migliorare. La televisione è così da 30 anni, questo padre contento e dello stessi padri che erano contenti che le figlie si infilavano nel letto di Berlusconi, sono il prodotto di 30 anni di disastro televisivo. In questi 30 anni dei tre agenti di socializzazione... Ma prima della televisione sono te le ragazze... Di coscia ambiziosa non si filavano i letti dei potenti. Sì, ma non è questo il problema. Cioè, io una cosa che ho sempre detto, provocando moltissime critiche verso di me, io dico, sono dalla parte di veline, schedine, rubi, e tu dici, ma sei pazza? No, perché finché io non sono sicura di mandare in onda, almeno sulla TV di Stato, dei programmi che servano anche, come dice la BBC, oltre che ad intrattenere, ed educare, poi io non mi sento responsabile poi di quello che accade. Però senti, Lorella, scusa, sennò ti devo brutalmente rompere. Rosanna Labertucci voleva farvi una domanda. Ecco, ma una ragazza in fondo che vive, conosco la tua zona in Sicilia, tra l'altro una terra che amo molto, ecco, ma una ragazza che in fondo vive in una zona, se vogliamo, un pochino decentrata così, come riesce ad avere questa sicurezza, questa personalità? Mi hai molto colpito per questo motivo, a parte anche la tua bellezza. Io non riesco ad essere sempre... Grande intervento di Rosanna Lambertucci, a Miss Italia siciliana, neoeletta, tradotto per noi poveri ingenui, tu che vivi in Africa... Come mai sei capitata di qui e non ti senti spaesata in mezzo a questo popolo civilizzato? Domenica, buongiorno. Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E intanto io approvo perfettamente quello che stai dicendo, perché ormai in quest'Italia così ridotta in povertà culturale e quant'altro assistiamo ancora a questo scempio, ma penso che noi adulti abbiamo questa grande responsabilità di metterci in movimento. Il movimento per far sì che queste cose comincino. Beh, oddio, ci sono donne picchiate, bastonate, uccise, stuprate. Esatto. Non è che poi questo sia lo scempio che più ci fa strappare le vesti, però lo osserviamo come fenomeno, perché c'è in prima serata della televisione pubblica e c'è un segno tangibile di tentativo di cambiamento goffo, maldestro e anche ipocrita, quindi ne parliamo. Prego. Altro, io sono perfettamente d'accordo che bisognerebbe cambiare qualcosa, iniziando appunto dalle scuole, dagli stessi genitori, perché secondo me le madri tengono le figlie senz'altro, e poi le ragazze a sua volta vanno molto intimidite a volte con queste lacrime strappate in primo piano, che secondo me è una grande pornografia questa. La vera pornografia era lacrima strappata. Queste cose proprio ormai... Cosa te ne abbiamo elencate 4-5 di pornografie? Diamo ogni senso. Pornografia laddove si parla di puttane. l'etimo greco, sì, perlomeno è così, il resto è oscenità, è brutto a vedere, sennò tutto diventa pornografico. Pornografia, la parola greca, è semplicemente lo scrivere e ragionare di puttane, fine. Sì, però è anche vero che, se allora usiamo un altro termine, comunque non è per fare audience, no? La strada, sì, giusta questa, ovviamente. Però tutto ciò fa pubblicità, fa denaro, fa giro. Quindi, in sintesi, lei non si sente rappresentata da queste Miss Italia, nemmeno dalla visione imbraghettata delle oscene ragazze. Assolutamente, peggio, perché le ragazze giustamente devono essere così, dovrebbero indossare dei costumi, cosa c'entra mettere addosso quelle cose per coprire quale tipo? Quella, è il look è tarantolato assurdo delle ragazze. Adele, buongiorno. Sì, buongiorno. Il mio pensiero è un po' quello che questo concorso qua, secondo me, sarebbe come un concorso canino, ossia stiamo valutando la bellezza, benissimo, non facciamo neanche parlare le Miss, chi se ne frega se sono intelligenti, se stanno studiando, che cosa ne pensano del paese, cioè, secondo me, devono essere valutate. Io premetto, non ho seguito il concorso di Miss Italia. No, no, però ha detto una cosa condivisibile. Uno dovrebbe buttare la maschera dell'ipocrisia, sono essere belle, che ci importa che siano anche profonde, se quello deve essere, almeno diciamolo, molto chiaro. Siano anche zitte, insomma, va bene così. Va bene, Adele, chiaro. Vincenzo. Pronto? Sì. Salve Nicoletti, io avevo chiamato per dire questo praticamente, ma si sta perdendo un po' la misura delle cose, si parla a volte senza avere il buon senso. Sì, allora vada al punto, qual è il suo pensiero? Cioè, è vero che c'è la crisi, però perché dobbiamo mortificarci, come giustamente diceva lei, con questi costumi proprio degli anni 30, anche questa Miss Italia che ha vinto, voglio dire, deve sempre incarnare il periodo in cui ci si trova. Negli anni 80 erano belle. Beh, bella Florida, non mi sembra in crisi, l'hanno un po' imbraghettata. Rispetto alle altre è molto sigaligna, diciamo. Ma poi, se ha visto male, c'ha una bella panzetta, direi che anzi rappresenta un modello finalmente lontano dal lugubre spettro dell'anoressica. Alessandro. Buongiorno. Sì. Io non ho visto la trasmissione, però come testimonianza sono stato un genitore nel 95 che ha accompagnato la propria figlia minorenne al concorso. Minorenne, da cosa era spinto? Chi l'ha convinta? Ma diciamo era un periodo estivo, la ragazza aveva 17 anni, ci siamo andati per divertirci. Lei si è divertita, l'ha presa come un divertimento, io da genitore ho controllato che fosse... Che quel divertimento fosse entro i limiti accettabili. L'unica diciamo, differenza che ho trovato è che mentre prima la televisione ha partecipato all'ultima serata ed era una dei tanti, perché c'era la televisione, c'erano i settimanali, c'erano i giornali, negli anni successivi invece mi sono reso conto che è strumentale il concorso alla televisione. Si è arrivata addirittura a 5 serate. Poi ecco, a adesso cosa fa sua figlia, aspirante Miss Italia? No, mia figlia adesso vive, è multilaureata, lavora, non ha avuto, per lei è finita lì, c'è stato il divertimento di quella serata. Ma perché l'hanno segata, se vinceva chissà, oggi faccia la reclame dell'acqua minerale che fa fare la pipì. No, è arrivata all'ultima serata, quindi in pratica è andata bene. Abbastanza, è andata bene, ma l'abbiamo presa tutti però come divertimento. Il concorso l'ho trovato abbastanza corretto. Soltanto devo dire che è un business, perché se 70.000 ragazzi... Sì, vai, non allarghiamoci, entriamo nell'area delle letture di tipo morale. Paola Concia, allora, nessuno che dica, cavoli, ci porto mia figlia perché di questi tempi aiuta la baracca se vince non so la Panda e non so quanti decine di migliaia di euro in buoni acquisto. Allora, io voglio un attimo tornare alla borsa. Avete sentito tutti, non sono impazzita, voglio rispondere anche a Lorella Zanardo, avete sentito tutti che tutto il mondo è in attesa di questa sentenza della Corte Costituzionale tedesca, e forse nessuno sa, ma in Germania lo sanno, che dentro alla Corte Costituzionale tedesca ci sono 5 donne e quindi in questa Corte Costituzionale tedesca che tiene sflagraticola il mondo, perché la sentenza sarà quello che dirà la Corte, da quello dipenderà la nostra felicità futura. Ci sono 5 donne, tra cui appunto tra l'altro una lesbica attivista, una professoressa universitaria attivista dei diritti degli omosessuali. Va bene. Cioè, allora, vuol dire che è più intelligente le altre donne? Che è più intelligente delle altre donne. No, sì. In Italia è impensabile che ci siano 5 donne alla corte. In Italia ce ne saranno talmente tante lesbiche, non lo dicono, questa è la differenza. No, vabbè, ma questo è un altro punto. Lo sai meglio però di me. Voglio rispondere a Lorella Zardo che mi chiede, dice, ma ognuno di noi deve fare nel suo piccolo, assolutamente sì. Io nel mio piccolissimo cerco di fare in modo che le donne italiane di raccontargli un'altra storia e di dire alle ragazze soprattutto di insegnargli la libertà di potersi immaginare di essere presidente del consiglio, capito? È questo che non noi so se dobbiamo... ho citato prima il tuo libro, ma ti ho chiamato a presentarlo in anteprima. La vera storia dei miei capelli bianchi, no, ma... 40 anni di vita, diritti negati, mondo adorato. Allora, cioè, noi dobbiamo il tema è questo. Qual è il racconto delle donne italiane nella televisione dove appunto giustamente una madre dice ma almeno lei esiste nella televisione, cioè esisti solo se sei in televisione, questo è il tema nel rapporto con i giovani, perché se i giovani la televisione per esempio banalmente non la guardano più perché stanno sulla rete infatti mi domandavo Paola quante coetanee di queste ragazze in realtà stessero davanti a televisione a vedersi la prima serata di Rai 1. Lorella Zanardi, ti avevo interrotto prima, parlavi di un modello di televisione in cui tu credi, la televisione didattica, educativa, che dia un senso, è anche giusto, ma in questa televisione non dovrebbe proprio avere nemmeno lontanamente l'idea che possa esistere una Miss Italia. Ma io quando penso a una televisione penso, ho vissuto molto nel paese anglosassone, una televisione come la BBC che ha nel suo obiettivo in home page, sul sito della BBC possiamo tutti verificare, intrattenere ed educare, non educare in senso bacchettone, tant'è vero che sono io la prima a dire che mi ha fatto sorridere aver vestito le Miss. Però la televisione. Ma se uno chiede a una madre badessa cosa fai per lo schifo di Miss Italia, dice mettiamogli le tonache, è chiaro. No, però noi chiaramente basterebbe ascoltare le ragazze. Come dicevo prima, io pubblicherò nel libro il manifesto che hanno scritto questi ragazzi su che cos'è per loro una rappresentazione interessante. Sintetizzamelo perché mi interessa anche a me. Cos'è per. Ma io dico sempre, gli autori televisivi e le autrici basterebbe che frequentassero di più i ragazzi e le ragazze, che sono molto più liberi. Ho visto recentemente uno spettacolo di una bravissima giovane attrice che si chiama Silvia Gallerani. Sta un'ora in scena completamente nuda, anche senza mutande, e devo dire che quel nudo è talmente pieno di significato che quello non darebbe fastidio a nessuno. Potrebbe nessuno essere mandato tranquillamente in prima serata, senza che nessuno... Lo garantisco di sì, però quel nudo... Però sai, noi abbiamo una visione ormai più realista del re nel segno della bigottaggine. La televisione italiana è talmente bigotta perché l'Italia è bigotta. Se anche fosse artistico, se anche fosse bello a vedere, se anche fosse liberatorio, nessuno ti farà mai vedere quel nudo. Preferiscono far vedere, ammiccare, sottintendere, come sempre avvenuto nei retrobottega più oscuri del potere e di tutte gli addentellati del potere. Sentiamo Denise un attimo. Denise, buongiorno. Buongiorno Gianluca e grazie per l'intervento. Volevo dire questo, io sono senza televisione, noi viviamo senza televisione, ma comunque le immagini ci arrivano. Questi lo intellettuali stesso. Snob che dicono noi non guardiamo la televisione. No, ma infatti no. Bevete no, anche tè verde, immagino. Sì, bevo tè verde, certo. qualche volta. Soltanto cucina vegana, immagino. No. Andate a letto con le galline. E vi congiungete proprio. Soltanto quando ci sono gli astri che lo permettono. Volevo dire questo, che comunque la televisione la guardo lo stesso, perché quando mi capita di essere a casa la televisione ti contamina anche se non ce l'hai, inutile. Infatti era questo che volevo dire, perché mi trovo d'accordo sul fatto che siamo in un paese bigotto e ipocrita, però le immagini arrivano lo stesso e purtroppo io devo dire che essendo un po', diciamo, mi sono disintossicata dalla televisione, per cui quando arrivano le immagini che mi trovo, che ne so, in pizzeria c'è la televisione accesa e mi è capitato di vedere anche il programma quello di selezione delle veline, io a dir la verità, cioè, rimango sempre più allibita perché forse... perché sono disintossicata. Quindi lo strutto del kebab della pizza non ti intossica, ma la televisione accesa in sottofondo pensa che faccia male al tuo ben strutturato equilibrio psicofisico. Mi fa piacere. Chi è? Mia mamma. La mamma? Allora, mamma di Romina, a lei la parola. Mamma, sei bellissima. Ci faccia uno spot promozionale per sua figlia. Io ti ho vista qui quando sei arrivata, stavi molto tesa, con le occhiaie, ma adesso stai cacciando una grinta... che vedo la mia vera Romina. Si vede il risultato. Ti voglio bene, mamma, anche se non vinci, sei sempre la numero uno. Grazie, mamma, si vede il risultato. Quale sarebbe questo risultato? Ancora me lo sto chiedendo. Mamma, sei bellissima vista da lontano. Questa povera ragazza disgraziata finalmente ha modo di avere un palmo di distanza con questa madre soffocante. Quindi lei a Montecatini, la mamma nel suo paesino d'origine, dice quanto sei bella, finalmente ti vedo da lontano, e dice, hai tirato fuori la grinta, e lei dice, il risultato si vede. Qual è il risultato? L'abbiamo vista ieri e oggi ne parliamo. Parliamo di Miss Italia in braghettoni. La risposta della edificante prova televisione pubblica allo sconcio delle orripilanti e oscene ostentazioni di lussure femminili a disposizione di satrapi famelici e vogliosi è stata questa. Hanno messo le Miss Italia e l'hanno imbraghettonate, tutti buoni principi, mamme, papà, lacrime, tutti studi eccelsi, tutte desiderose di farcela, ma per fare cosa? Per andare a fare l'attrice in teatro. Con chi ne parliamo? Ne parliamo con Lorella Zanardo, che è autrice del documentario Il corpo delle donne, la vera spina nel fianco negli ultimi anni di tutti coloro che hanno pensato di poter tranquillamente ostentare come fossero tacche sul loro Winchester, tonnellate di ragazze discinte che altro non chiedevano che poter cambiare la loro situazione. Paola Concia, oltre che donna politica, un faro per tutte le donne che vogliono impugnare la libertà delle loro scelte sessuali, sentimentali, si è sposata con una bella tedesca, vorrebbe che anche in Italia le donne potessero sposarsi, cosa per cui presto sarà messa a rogo. E poi, per completare appunto la triade di donne osservatrici, le donne che vengono fatte osservare dal centro d'osservazione privilegiato di questo paese, che è la rete ammiraglia del servizio pubblico, Lucetta Scaraffia. Lucetta Scaraffia, buongiorno. Buongiorno. Storica, giornalista italiana, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi La Sapienza. Qualcuno ha scritto, non so se è vero, probabile futuro direttore dell'Osservatorio Romano, o non è vero? Ma non è vero niente. Però l'hanno scritto. Vabbè, comunque per delimitare la tua area di pensiero. Cosa ne dici te delle ragazze in braghettoni su Rai 1 viste in queste serate di Miss Italia? Beh, io non l'ho vista, devo dire la verità. Te le ho descritte però. So che ci sono state, è un tentativo appunto patetico. Io penso che invece il miglioramento, diciamo così, di questo tipo di programmi avviene non attraverso coprendo le ragazze, che chiaramente a Miss Italia devono presentarsi un po' svestite, come l'hanno sempre fatto. Cioè, vengono considerate negli anni 50 per la bellezza. Mostrarsi, si mostrino. Ecco, ma è quello che dicono, è come vengono presentate, ma non che devono parlare della mamma, del papà e dire che vogliono fare l'attrice di teatro. È l'ironia, la desacralizzazione di questo mito, da una parte che le donne fanno strada solo attraverso la bellezza, e dall'altra il mito della grinta. Che aiuta comunque. Sì, ma la grinta, cioè tutti i programmi televisivi sono un'ode alla grinta, non è solo Miss Italia, cioè tutti i programmi della De Filippi, tutti i programmi, c'è sempre questo elogio della grinta. Una volta la grinta era un termine, come lei sa, un po' negativo, no? Che adesso è diventata una sorta di esaltazione del bullismo, diciamo. La grinta, che vorrebbe dire forse coraggio e volontà di partecipare, di competere. Con una nota additiva ancora di più, però vuol dire è il soffocare chi non ha grinta, sì. Chi si ferma, chi è perdente, chi non ha il passo degli altri. La persona con grinta non guarda in faccia a nessuno. Orribile proprio, io non sarei così penso che questa deificazione della grinta sia l'aspetto veramente volgare di questi Lucetta programmi. Scaraffia, per paradosso, fosse stata lei la presidentessa della RAI, il primo giorno le avessero detto Miss Italia parte, lei cosa avrebbe detto? Avrei messo delle persone ironiche, avrei fatto delle domande vere a queste ragazze, e quando loro dicevano vorrei fare l'attrice teatrale, gli avrei spiegato che il teatro in Italia non esiste quasi più, che è sovvenzionato e che è un mestiere che quasi non si può praticare, e quindi gli avrei detto, ragazza, veramente per vivere cosa vuoi fare, cosa sai fare, cosa hai studiato. Ma l'avrebbe mantenuta comunque la rassegna delle belle, sì. Ma sì, perché non vedo niente di male in quello, sì. E anche spogliate, perché naturalmente ma se sì, sono belle fanno vedere. Il problema non è quello, non ma è secondo lei una bella deve dimostrare sempre anche di essere bella dentro, o vogliamo buttare via questo luogo comune? Non è indispensabile essere belle dentro quando no, sei belle fuori, e non essere ridicole, non essere volgari. E invece tutto quell'insieme era da una parte comico e dall'altra un po' volgare. Appunto la grinta è volgare ed è comico rivestire queste ragazze di papà, mamme e buone intenzioni teatrali. Cioè queste ragazze non sono così così. Però io invece farei domande vere: cosa significa voler fare la velina adesso? Ma tu sai cosa ti aspetta veramente se vuoi fare la velina? Ma che ecco, io farei delle domande vere, cioè penso che un po' di verità non nuocerebbe. Sì, ma però lei capisce, Sgraffia, il meccanismo stesso di tutti questi concorsi, molte volte, non voglio entrare nello specifico, sì, è basato anche sugli stessi rapporti fra potere e capacità e potenzialità di portare le persone all'esposizione. Il turpe mercimonio, non voglio dire in Miss Italia, ma comunque anche un po' il lubrificante, quando si vede una bella ragazza finalmente ce la fa, molte volte per meriti dati dalla sua spontaneità, dalla sua bellezza, dalla sua mamma, e un po' anche perché qualcuno da dietro gli ha dato una spintina. Sempre così e non saremo non noi cambia. Che possiamo impedire. Paola però... Concia, ma è notato che la Sgraffia ancora una volta ti supera a sinistra? La vita è piena di sorprese, che fa piacere. No, io voglio, a me mi fa piacere se mi supera a sinistra Sgraffia. Ci ha detto, lei farebbe le Miss Italia, le vorrebbe spogliate, non necessariamente impegnate, certo, però allora, concretamente consapevoli di quello banale, che le aspetta. Molto banale. Voglio dire che il giorno in cui la televisione, ma tutto il resto, racconterà che il destino di una donna non è né solo quello di essere velina, cioè la scelta tra essere velina e essere violentata, allora forse anche Miss Italia si potrà, ci sta, non so come dire. L'ho detto, l'alternativa non può essere, adesso c'è una via di mezzo fra Barbie e Santa Maria Goretti. Esatto, il tema è questo, cioè che cosa racconta delle donne la televisione? Allora, siccome le racconta o solo veline, o solo stuprate, violentate, cose che sono naturalmente vere, ma non è questa, c'è di tutto tra queste due cose. Un attimo solo, Lorella Zanardo, ti faccio la domanda finale proprio in chiusura. Qualcuno diceva che tu dovessi diventare addirittura consigliere d'amministrazione della RAI, forse sarebbe stata l'occasione in cui portavi in pratica quello che è stato il tuo pensiero. Ma le donne che si muovono nella televisione, cosa fanno? Non è che ce ne sono poche, visto che io chiamo sempre donne, mi dicono che le donne dovrebbero essere rappresentate diversamente. Non è che proprio non ci siano donne che pensano, immaginano, fanno reportage, dalle Gabanelli in su, dico in giù, come vuoi vederla. Ma come dicevi tu prima, cioè la donna è rappresentata o la Gabanelli, grazie a Dio che c'è, oppure la donna velina o la donna, come dice il Censis, del dolore, che è molto rappresentata in Italia. Tutti in mezzo, ci siamo noi, ci sono le donne italiane, rappresentateci, andate nelle scuole, rappresentate le ragazze, quelle che lavorano, cioè c'è la donna Gabanelli e una quantità di donne corpo, ma non corpo agito, corpo oggetto. Rappresentiamo le donne italiane, che mi sembra, sono tante, è quello che questa mattina abbiamo cercato in qualche maniera di fare, anche se in maniera disordinata. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Alessandro Chiappini, a domani.